amica Fanta! Fanta! Bene, eccoci. Ritardo di 20 minuti questa sera. Siamo state bravissime. Ci stiamo superando. Stiamo superando i nostri limiti. Noi. Vabbè, ma per una volta ci sta. Ma dai, sì. Non succede sempre. No, lo facciamo perché così è Nautodase non è geloso, non pensa che siamo così perfette, come in realtà siamo. Noi siamo perfette, parliamo di argomenti bellissimi, abbiamo un sacco di ascoltatori che ci scrivono un sacco di mail a postawombat@insiberia.net. Sì, io sono ancora sul treno, sono ancora un po'. E che ci seguono sul nostro Twitter con l'indirizzo Radio Wombat Fi, su Facebook Radio-Wombat-Firenze e ovviamente sul nostro sito, perché se no non ci stareste ascoltando, non sareste qui con noi. Esatto. Bravi, bene. Buon Natale! Buon Natale a tutti! È l'ora dell'aperitivo, diciamolo, cosa stiamo facendo. Vabbè, diciamolo. Ma non si dovrebbe dire. Perché stiamo poi ci bevendo. Rimproverano. Ah, istigazione a bere le cosine. Non va bene. Allora, cari mostri amici. Cari mostri. Mostri della linguistica, noi ci teniamo sempre a tenervi informati settimanalmente con quelle che sono i nostri pipponi. Chiamiamoli, sì, così ci sta. E direi che questa è un po' una puntata di transizione. Sì, è una di quelle puntate in cui si dice tutto e niente, perché abbiamo avuto poco tempo per prepararlo. No, non è vero. No, più che altro abbiamo avuto poco tempo per organizzare un discorso così vasto. Ecco, anche perché è realmente vasto, non potevamo concluderlo in una sola puntata, non avrebbe senso. No, penso che da questa tipo puntata pilota, da questa matrice potrebbero essere generate altre 30, no 30, 30. E minimo 8, perché comunque esatto. Scegliendo... finché non diciamo l'argomento potremmo vi parlare. Vi dice qualcosa il nome Svetan Todorov, il nome di Gorgia D'Alentini, capito. Vissuto nel V secolo avanti Cristo. Te capì, uè. Si parla di figure retoriche. Caspita. Ebbene sì. Si parla di figure retoriche, quindi di quell'argomento che è stato un incubo per chiunque abbia avuto meno di 7 in epica storia, a scuola. che poi ci si ferma sempre a un certo tipo di figure retoriche a scuola, no? Che sono quelle più che altro limitate all'antitesi, all'iperbole, queste cose, ma in realtà ce ne sono tantissime. Perché? Perché le figure retoriche nascono, sono nate per dare maggiore effettività. Effettività al linguaggio, quindi colore e bellezza servono a disegnare con le parole. Se mi sento tipo la maestria delle elementari. A disegnare con le parole, veicolando significati attraverso il pensiero laterale, l'unione laterale di concetti, di descrizioni, appunto di parole di uso più o meno comune. Le figure retoriche sono belle perché stimolano la fantasia e servono soprattutto a rendere la nostra lingua più ricca, facendo sempre riferimento a quella che è la grande capacità ricorsiva del nostro linguaggio. Beh, possiamo dire che le figure retoriche nascono da quello, dalla capacità dell'essere umano di assimilare la realtà che lo circonda, gli stimoli, gli input a quello che poi è la sua produzione linguistica. Ma sì, sì, sì. A sì. Me non piacciono. No. Sono troppo difficili da ricordare. Che siano un nome tipo Anacoluto, effettivamente è una roba. Le ho sempre detestate, o meglio, ho sempre detestato studiarle. Mentre in realtà poi si rendono sicuramente il linguaggio molto più colorito. Più che altro sì, appunto, cioè ne usiamo talmente tante senza rendercene conto nell'arco di una giornata, tipo ti faccio viola di schiaffi, blu di schiaffi, queste cose qui. E, però per riscaldarci, visto che avremo veramente tante tante tante cose da dire, tipo la storia delle figure retoriche, le principali divisioni delle figure retoriche, vi direi di mettere un pezzettino. A questo punto mettiamo... Mettiamo lui. Mettiamo loro. Lo mettiamo loro, dai. Questa è una bella figura retorica. Sei diventata nera, nera, nera, sei diventata nera, come il gatto. Sei diventata nera, nera, nera, sei diventata nera, come il gatto. Ogni giorno tra il mare e la sabbia, dal sole che scotta ti lasci bruciare, sul naso e sulle spalle sei pelata, che matta. Hai forse deciso di farmi dispetto, di giorno ti vedo, di sera però, purtroppo se non c'è la luna piena, non ti distingo perché sei diventata nera. Nera, nera, sei diventata nera, come il carbon. Sei diventata nera, nera, nera, sei diventata nera, come il carbon. Balsamata, che matta, con gli occhi socchiusi tu pensi soltanto a quanto gli amici rimasti in città, tornando dalla tua villeggiatura, tirando tutti che tu sei diventata nera, nera, nera, sei diventata nera, come il capo, sei diventata nera, nera. Questi pezzi durano pochissimo. Sì, infatti. Abbiamo fatto in tempo ad agguantare due patatine. Perché ovviamente lo snack. L'aperitivo è aperitivo. Insomma, le cose si fanno seriamente o non si fanno. Che figura retorica potrebbe essere se diventa nera come il carbone? Una similitudine. Sì, è similitudine. Ma anche poi un'iperbole? Abbiamo... No. No, perché... No, no, no, però io non sono mai troppo sicura. Esatto. Sulle no, figure retoriche, onestamente. Sì, ma perché no? Aspetta, te lo dico subito, perché io ho la guida di Focus Union. Oh. Ragazzi, si diceva prima... Focus Junior era il fratellino meno stupido di Focus. Esatto. Davvero, cioè... Però guarda, effettivamente c'è... Potrebbe essere anche un eufemismo. Allora... Paragone tra due immagini solitamente... Mi sono persa, scusate. Introdotto da Nessi. Oggi è una giornata un po' così. potrebbe chissà essere domani come sarà. Non lo trovo, ma te lo dico fra un pochino. Mm-hmm. Concentriamoci. Facciamo il quizzone. Esatto. Facciamo il quizzone. Scriveteci a posta wombat@insiberia.net dicendoci qual è la figura retorica che corrisponde a sei diventata nera come il carbone. Io voto similitudine. Sì, sì, dai. Ma anche il sarcasmo. Lo sapevate che il sarcasmo, prima di essere un termine di uso abbastanza comune, era una figura retorica? Eh sì. Di tipo, rasentava l'ironia, ma era un pochettino più, più tagliente. Come dire, sì, tagliente, eh sì, brutale. Ironia tagliente è spesso brutale, che dà un giudizio contro qualcuno o qualcosa. Ma ve lo ricordate Cecchi Paone che faceva la pubblicità di Focus Junior? No. Onestamente no. Ho avuto questa grande questa immagine proprio. Ma soprattutto davvero. Perché? Perché così c'era un'assonanza tra Focus e lui. Dice, ma perché ha fatto la pubblicità? Perché? Mm-hmm. Vabbè. Quindi vi dicevamo che questa sarà la prima puntata sulle figure retoriche, che andrà avanti forse un altro pochettino, qualche puntata, magari intervallata da altri argomenti. No, perché effettivamente sarebbe bello soffermarsi, se non su una figura retorica puntata, almeno, che ne so, fare gruppi di due o tre e associarci poi poesie e canzoni, proprio per... Ora, prima realmente ho detto, non mi sono mai piaciute, non mi è mai piaciuto studiarle, perché effettivamente sono poi difficili da memorizzare, sì. Ok? E perché si fanno sempre tutte insieme, perché si cita un esempio per ciascuna, e è sempre molto povero lo studio che se ne fa. E allora, visto che ci occupiamo di linguistica e di quanto dovrebbe essere bella la lingua, io direi che si può anche approfondire questo argomento. Magari può servire anche a chi la sta studiando, può infatti diventare un... D'altronde ci stiamo avvicinando alle sessioni d'esame estive, no, i parziali di maggio in genere, insomma queste cose qua. Sì. Ci stiamo avvicinando alla maturità, a tutti gli esamini, alle... maledettissime prove invalsi. Io mi chiedo perché continuate in questo paese, perché si continuano a fare le prove invalsi. Vabbè, che americanizziamo le scuole. No, vabbè, veramente. Potremmo fare anche una bella puntata sul sistema scolastico italiano, no. Dalla riforma Gentile. Mi rifiuto. No, mi perché rifiuto. Sarebbe una puntata Gentile lunghissima. Gentile Gelmini, si potrebbe intitolare Gigi Allin. Esatto. No, davvero, sarebbe più che altro uno sfacelo, sarebbe veramente una puntata fatta di insolenze lunghissima. Davvero. No, lo faccio per divertirmi. Come il compagno comunista di Fantozzi, saremmo come il compagno comunista di Fantozzi, praticamente. Occhio, c'è anche stasera, lui. Stasera c'è anche e lui. E dopo vi tocca, via. Come umano lei. E abbiamo la super sigla. Sì, me la voglio regalare. Ma quando? Dopo? Tra un pochino, appena finisci di farci il pippone. Io la metterei proprio come la bella schiaffo. Carrellata, anche proprio sotto, tipo un bel elenco di figure retoriche. Sveglia e caffè, è quella lì. Barba mi dè, che è una letterazione. Anche quella è una bravissima. Ma lei sa tutte, ragazzi. Grazie alla mamma Franca e al babbo Giuseppe che mi hanno fatto studiare. Grandissimi. Ma lo vogliamo dire che cosa sono ste benedette figure retoriche? Dillo tu. Che non sono la chiave per prendere 7 o più, no, in epica a scuola, no. No. Sono intanto la parola retorica, no? Che deriva, diciamo, un termine classico che, se vogliamo fare un po' di etimo, deriva da schema, quindi da figura. Retorica, quindi figura deriva, diciamo, richiama un po' la parola schema, e retorica invece la... Mi fanno ridere la regia. E, la parola retorica invece ve lo diremo la prossima volta o la puntata a seguire, perché in realtà si collega a un altro tema che vogliamo fare, quindi non vi sveliamo troppo. Ecco. Retorica, storia, figure retoriche... Silence, please. Ecco. E in retorica praticamente si parla appunto anche di artifici che vengono utilizzati nel discorso per creare effetti particolari. Infatti l'artificio è ciò che la figura rappresenta, soprattutto ad esempio nel linguaggio poetico, che cosa ci rappresenta? Una sorta di iperbole, quindi una deviazione, un'esagerazione, comunque un qualche cosa che si discosta dal linguaggio comune. O perlomeno, più o meno così, ci dice anche la cara Wikipedia, che si sta fascistizzando sempre di più, vabbè. Certo. Il nostro maestro di retorica, Marco Fabio Quintiliano, quindi... Si è andata addirittura a scavare al primo secolo dopo Cristo. Ma c'è molta, molta roba prima del primo secolo, vi diceva ragazzi niente. Ragazzi miei. Gorgio D'Alentini, che non mi ricordo qual era il suo nome, diciamo... epigrafico, mi verrebbe da dire in greco. Patronimico, ma assomiglia al nome del lei fu George Michael. Ah sì? Perché era greco George Michael, per cui era greco come Giorgio D'Alentini. Ha detto Giorgio D'Alentini. Giorgia da via Nicola. Chi è sto Giorgio D'Alentini? È il primo a individuare la ricorrenza di alcuni espedienti linguistici nella prosa. È il primo a parlarci di antitesi, di omoteleuto e anche della meno conosciuta figura retorica detta Isocolo. Gorgio D'Alentini, infatti, era un filosofo della scuola di pre-socratico. No, non lo so. Comunque. Io onestamente non lo so. E, praticamente è conosciuto più che altro anche per essere appunto un autore greco che appunto si occupava di retorica, per l'appunto, essendo filosofo, ma non era un retore, e ha scritto per esempio anche l'Encomio di Elena, che è un'opera bellina, chiamiamo così, cioè una sorta di difesa della povera Elena, da cui Jacques-Louis David ha creato lo splendido L'amore di Elena e Paride, che è esposto al Louvre. Tutto questo per dirvi soltanto questa cosa. Chiaro, in realtà io per rifarci gli occhi anche solo con l'immaginazione. Esatto, ho svelato due debolezze mie quest'oggi, ma questa ce l'ho tutta, la so. Voglio un più nel registro. Io sono abbastanza ignorante in materia, diciamo, di retorica e di filosofia, per cui lì vacillo, però sull'arte, appunto, come dice ci anche Nenia, ci siamo. Non è che si può sapere proprio tutto, nella vita. No, poi la vita si spera sia ancora abbastanza lunghina. Chissà, magari con l'università della terza età ci rifaremo. Esatto. Che bello. Tra 30 anni siamo ancora forse un po' troppo giovani per l'università della terza età. Ma insomma, sono bella andata. Ma... ci arrivo bene in terza. Volevamo piena, dire ai nostri ascoltatori in terza categoria. No, volevamo dire ai nostri ascoltatori che siamo giovani. Giovanissime. Non arriviamo agli anta. No, ma no, ma anzi, quando mai? Siamo nel fiore della gioventù. Certo. Però cosa stavamo dicendo? Ah sì, che comunque ci sono tante altri personaggi, diciamo, soprattutto dell'ambiente più contemporaneo, che parlano di figure retoriche, che sono per esempio il saggista francese Gérard Genet, che ha scritto Figure nel 1969, ma anche Svetan Todorov, che ha creato il dizionario con Ducrot, ha creato il dizionario enciclopedico delle scienze del linguaggio nel 72. E questi due autori, sono due saggisti in realtà, hanno evidenziato i paradossi che si creano nel linguaggio, cioè un linguaggio è comune, ha un sostrato popolare o comunque di utilizzo quotidiano e viene intriso però di deviazioni, di scarti e di soprattutto un ampio uso di figure retoriche, per cui tendiamo ad attingere da quello che era probabilmente un piccolo tesoro degli antichi, della loro letteratura, della loro retorica, filosofia, e inserendolo nella nostra lingua quotidiana. E Todorov soprattutto sottolinea come non ogni forma, diciamo, di figura retorica rappresenta in realtà una deviazione da quello che è il linguaggio comune. Per esempio l'assindeto e il polisindeto, che poi vedremo che cosa sono. E, ha studiato la ragazza. No, ma Todorov... Nina studia. C'era Lola non Corre come Nina la Nenia. Studia, è vero. Nina studia, Nenia no. Non è vero. Anche questa. La Nenia è la solita che dice: oh, non ho studiato, non so niente. E poi si presenta agli esami e prende 30. Certo. No, io ero una di quelle che per prendere 30 doveva studiare 6 volte di Venduri. Più di ogni comune mortale. Questo era il professore. Arrivate, forza, date subito le informazioni alle 9. Bene, Todorov comunque riproporremo perché ha scritto un libro bello, posso dire che ha scritto, sì, un libro bellissimo, la letteratura, sì, fantastica, che è un saggettino piccolo piccolo, molto facile da leggere, ve lo potete leggere anche sotto l'ombrellone, che parla di letteratura fantastica, dei linguaggi, dei codici della letteratura horror, che perché lui per fantastico intende altre cose. Ah, insomma. Quello, ok, quello che dicevi prima, sono curiosa, non l'ho facciamo mai visto. Facciamo una puntata su Todorov. Sì, volentieri. Ah, che bello. Sì, sì, sì, sì. Non lo conoscevo. Terza debolezza, poi dopo però, cioè, proponimi cose che so. Posso dire l'ultima cosa? No. Di Cicerone, sì, dai, l'antipaticissimo Cicerone, che parlava di lumina, flores et colores, cioè il potere di illuminare il discorso, di attribuirgli una grande vivacità. Questa è un saluto alla professoressa De Lucia, chi è? La prof di latino delle superiori del liceo, ecco. Che questa cosa me la ricordo ancora. Poi lei però era di Cava dei Tirreni, mi sembra, forse Cavagnola. E aveva pure la S, quindi che diceva bello. Lumina, flores et colores. Che bello, perché voi non avete visto la faccia di Nina? Perché strizzava gli occhi e faceva proprio... Meraviglia. Mi sono proprio immedesimata nella professoressa. Fantastico. Va bene, allora a questo punto ve la dai, regalo. Dai, tutta, ragazzi. Fantozzi ragioni rugo. Matricola 1001 Barabis. Dell'ufficio sinistri. Lei venghi qua. Sì, signor mega direttore. No, va di là. E si muovi. Ah, hanno messo la parete a vetri. Sveglia e caffè. Barba e bidet. Presto che perdo il tram. Se il cartellino non timbrerò. Fantozzi! No! Crocefissi in sala mensa, no, mi vergogno! Ma che umiliazione pubblica! E poi mi si intrecciano i diti! La 1003, frigo e buffet, l'elettro dei frappè, più la moquette, poi la roulotte. Le rate! 16 kg e 700 ricambiali! Sì, direttor, conte ingegner, sire sua santità. In ginocchio! Faccia di me quello che vuol. Aia! Sottoscrizione regalo al mega presidente galattico. Ma che gli facciamo quest'anno? Una bella poltrona in pelle umana. Bella! Bella idea! Ma non sempre la mia. Ma perché sempre la mia? Di giorno qui, sera TV, sempre sarà così. Indennità, anzianità. Che noia! Oggi cos'è, lunedì o venerdì? Giorno verrà, che lo farà, Fantozzi volerà. Ragioniere! Monti e città, l'immensità. Svegliarsi! Una craniata pazzesca. Ma perché Fantozzi fa solo tragiche rime? Bozzi, cozzi, singhiozzi. No, direttore, non mi strozzi. apposta se no io! Fantozzi fan che rima con Abbozzi! È giusto! Come strozza bene lei! Wacciu wacciu wari wari, che bello, chissà come è scritto, avrà sicuramente una scrittura complessissima. Wacciu wari wari wari, ma che bravi che siamo. Io qui ho uno schema fenomenale, una mappa concettualissima, mentalissima direi ormai, perché questa è proprio... Ce la vuoi elencare? Sembrano i capillari delle gambe d'estate, il 15 di agosto in centro a Firenze. Tipo sotto l'arco di San Pierino. Esatto. Ma che ne dici se iniziamo a elencarle, se non altro, no? Ma sì. Perché? Ci sarebbero un sacco di cose da dire, per cui secondo me conviene iniziare un po' perlomeno a distinguerle. Sì. Distinguiamo quelle che sono. Tipo, penso che questa distinzione, tra l'altro, derivi dall'epoca barocca, dai manuali che sono stati redatti a cavallo tra il 1006 e il 1007, che sono abbastanza utili come suddivisioni, perché appunto noi possiamo riconoscere le figure retoriche in base alla loro appartenenza fonetica, alla loro appartenenza sintattica o semantica. Per esempio abbiamo le figure di suono, appunto, quindi quelle fonetiche che riguardano l'aspetto fonico-ritmico delle parole, le costruzioni invece sintattiche che riguardano l'ordine delle parole all'interno di una frase, ovviamente, le figure di significato che riguardano lo spostamento, il cosiddetto shift di significato che i vocaboli possono assumere un po'. Ok. Prendendo sempre però un uso quotidiano e, come dire, giocandoci un po'. Okay, questo è, sì, quello che viene fatto fondamentalmente. Vogliamo iniziare con l'elenco? Sì, facciamolo. Qua ci starebbe sotto Fantozzi come sottofondo. Ci starebbe mettere. La rimetto. Dai, lo mettiamo. Eccolo. Eccolo, eccolo. Allora, vadi! La prima, Mina, aiutami, body, aiutami. L'allitterazione è la più facile di tutte. Qua io ho una cosa bellissima sotto una griglia che richiama un esempio nel quotidiano, un esempio letterario, diciamo, canzoniero, e quello della pubblicità. Ah, sì. Meriggiare pallido assorto, meriggiare pallido e assorto, quindi sibilanti e la nostra amata R, noi che siamo italiani. Meriggiare pallido assorto citando Montale, no? Far fuoco e fiamme, sereno è, sereno sarà, se non sarà sereno si rasserenerà. Lo scegli lingua generalmente si basa appunto su questa, sì, figura retorica che è l'allitterazione. Me ne vuoi dire una della pubblicità, la sai? Branca. Allora, il brr brancamente in realtà è una figura retorica, ma non è una propriamente bastanza. Esatto, perché il brr è non è nemmeno un'onomatopea. No, no, è qualcosa di fumettistico, qualcosa di... Ma nemmeno, perché anche il fumettistico comunque è una derivazione di onomatopea. No, scusate, non c'entrava niente la regolata. Era... Sapete, la radio è bella perché si vedono solamente, si sentono le voci ma non si vedono le facce. La radio è bella perché varia. Poi assonanza. Chiaramente le diciamo in ordine alfabetico. Certo. Non usiamo catalogare. Esatto. Parlaci un po' dell'assonanza, baby. Io leggo, vi leggo Ugo Foscolo, e quando dal nervoso aereo inquiete tenebre lunghe all'universo neni. Quindi, capito, è quella figura retorica che si basa sulla come possiamo dire, sulla alternanza vocalica e consonantica. Sera, tesa, parte, grande. Ok, bene, bene, bene. E sulla poi, pubblicità abbiamo le solite ripetizioni un po' ritmiche. No, una bruttissima, io non so. Potenti, fanta, tanta. Fanta, esatto. Sì. Poi abbiamo la consonanza. Ronza la zanzara nella stanza silenziosa, ma l'abbiamo detto. No, questa no, no, no, questa no, tipo sì, oppure possiamo dire, sempre citando Montale, perché Montale alla fine uno dei poeti che ha utilizzato più figure retoriche in assoluto, non era sicuramente prosaico e prosastico, ma soprattutto tipo consonanza tra gli scogli parlotta la maretta. Dorme quello sirto guerrier che entro mi rugge. Foscolino. Foscolino adorato. Caro il mio foscolino. Ce ne vuoi dire una tu, bellissima, che so che ti piace tanto. L'onomatopea, ma certo, è la più, secondo me è la più ricca. È la più, è quella che probabilmente incuriosisce anche, che mi incuriosisce di più, quindi l'ho sempre apprezzata. E quindi tutti i versi degli animali, ululare, miagolare, fare il bau bau dei cani, che poi è buffo perché appunto a seconda della lingua, cioè di derivazione sì del suono dell'animale, ma comunque convertito in funzione poi della lingua, quindi tra l'italiano e l'ungherese, piuttosto non sarà, che l'americano è sempre differente, questa cosa mi ha sempre fatto buttare via delle risate. E che comunque hanno, sì, hanno poi fatto nascere quel linguaggio fumettistico del Bang, Swing, Sponge, Brunch, esatto, che Calvino insegna, importantissimo, perché in origine anche dal punto di vista fiabesco, insomma, ha creato tutto questo immaginario di suono, frasi, parole, carino, insomma. C'era, non mi ricordo se era il libro di Calvino sulla fiaba, possibile? Sì, io ecco, stavo c'era pensando, una parte sì, che sì, parlava proprio dell'onomatopea, molto carina. Quello magari quando si parla dell'onomatopea lo porto. Vi faremo una puntata intera se non sui libri proprio. Anche sì. Ah, così poi non ci ascolterà mai più nessuno, nemmeno per sbaglio. E allora la diciamo lista, qualcosa sì sull'onomatopea. Esatto. Mentre si levano tremuli scricchi. Queste sono ovviamente di suono, giusto? No? Sì, sono tutte di suono. Cioè lo scricchiolio. Scricchiolio. Il suono della parola, quindi la fonetica, rimanda a quello che è il rumore reale. Quello che percepiamo del rumore reale, appunto, che può essere diverso. No. Quel grandissimo paraculo di Pascoli, ne usa tantissimo. Pascoli era un paraculo, signore, ma di quelli Serie. Che tonfi, tonfi, tonfi. Veniva una voce dai campi, chiu, chiu, chiu. Ma chiu non è un'onomatopea. Uno stacco don don di campane. Sì, ora perché appunto tra gli esempi abbiamo questo, però in realtà ci sono anche cose buffe nell'onomatopea, carine. Cioè ci sono anche cose più carine. Sì, questo è proprio diciamo a livello scolastico, ma perché appunto come vi dicevamo questa è un'introduzione, se avrete la pazienza, come direbbero a Napoli, la pazienza di ascoltare quello che abbiamo da dirvi, in realtà faremo delle puntate bellissime perché sono proprio effettivamente codici che ci appartengono, questi delle figure retoriche. Sì. Li utilizziamo in continuazione. Ma sì. Starnutire però non è un'onomatopea, vero? Starnutire no. No. No. Non penso. Bene. Però andrò a indagare. E poi una bellissima, di cui sono fatti la maggior parte dei proverbi. Ciao. La paranomasia o paranomasia. Non ho mai capito ancora tuttora come si dica, perché paranomasia. Io penso paranomasia, sì. Però sempre, ci sono sempre l'ho sempre sentita così. Sempre, tutti i giorni alla mattina quando mi alzo. Ogni mattina, dopo il caffè. La mia preferita, praticamente... Che cosa fa la paranomasia? Semplicemente utilizza verbi, nomi, aggettivi che al loro interno hanno un'alternanza consonantica, ovvero, per farvela capire a me, utilizzano due termini che sono praticamente in realtà una, come dire, un anagramma dell'altro. Neanche, neanche, no. Non proprio. Perché nel se suono io suono vi... sì, sembrerebbe, poi sembra... non è un anagramma vero e proprio, però, però c'è un'alternanza, parrebbe, sì. Il cambio generalmente della prima vocale, tipo chi non risica non rosica, spendere espandere, mm-hmm. Via vai, capire fischi per fiaschi. Vediamo se me ne viene in mente qualcun altro, perché sicuramente sono tantissimi. Vedremo, vedremo. Ma facciamo una pausetta un attimo. Eh sì, perché io vi volevo far sentire per l'appunto questo pezzo qui. Questa è una paranomasia. No, non lo è. Non è proprio. Se tu chiudi gli occhi e mi baci, tu non ci crederai. Ma vedo le mille bolle blu e vanno leggere, vanno, si rincorrono, salgono, scendono per il cielo. Le mille bolle blu, blu. Blu che volano, e volano, e volano. Blu, le mille bolle blu, blu, mi sento dondolare. Tra mille bolle blu che danzano su grappoli di nuvole. Dentro a me le arpe suonano. Se vedo passeggiare nel vento le mille bolle blu, un bacio ancora, un bacio, s'avvicinano, eccole, eccole, sono qui. Dura tanto questo pezzo. Tantissimo. Pieno, pieno di alliterazioni. Ma soprattutto le mille bolle blu. Le mille bolle blu, sì, è una grande, grande alliterazione. Qualcuno ipotizzava fosse anche un po' un'onomatopea. Se le bolle facessero... Potrebbe essere. Ci sta. Sì, sotto, sì, sotto sì, forse sì. Qualcosa c'è. Però l'alliterazione in primis. Bene. Andiamo avanti. Abbiamo avuto una domanda da casa. Ora, io non so se farvela sentire. Mancano 10 minuti, per cui... Però c'è una domanda da casa. Bisogna, sì, ve la faccio sentire. D'altronde è un momento importante questo, eh? Ciao Nani e Nina, ciao, sì. Avrei una domanda, ecco, ma sulle figure retoriche. Per esempio, Accademia della Crusca, voi l'avete... L'avete un po' chiamata, presa in giro, Accademia della Brusca. Ecco, come si chiama questa figura retorica? Questo era Furio che ci chiamava da Torino. Furio, sì, meraviglioso. Era Furio. Allora, noi non abbiamo pensato a nessunissima figura retorica perché no. L'abbiamo fatto proprio a spregio totale. Sappiatelo. Anche pur stimando tantissimo, volevamo sì, sì, avvicinarci in qualche modo, ma l'unico era questo perché non potevamo essere abbastanza degne. Però potrebbe essere una sostituzione semplicissima, quindi sì, una sorta di una sostituzione. Lo metterei più sul De Tourmont. Lo metteresti su? Sul De Tourmont, lo spiazzamento dell'usare una parola conosciuta, ma esatto, darle un'altra. Però non ci abbiamo in realtà mai pensato. Era bello così. Si rifà qualcosa di conosciuto, ironizzando, esatto, comunque d'altronde dandogli un altro per senso. Per definizione è una figura retorica, effettivamente. Cioè, quello che abbiamo fatto, forse l'abbiamo creato. Non lo so, forse l'abbiamo creato. Andremo a vedere. È più riguarda di più i messaggi pubblicitari contraffatti, quindi tutto il subvertising che c'è stato in questi, esatto, ultimi 10 anni di campagne mediatiche contro le grandi multinazionali, piuttosto visto Coca-Cola con qualche stemma che rimanda all'eccidio dei sindacalisti, piuttosto sì, che... Tipo Facebook, per esempio, fa parte dello stesso gruppo. Potrebbe di, essere un'assonanza. Di manipolazione. Sì, più che altro cambi qualcosa, rimandi a quell'elemento che già conosci, però gli stai dando un altro significato. Esatto, fa più parte della contestazione al linguaggio mediatico, sì, pubblicitario. Esatto. Però approfondiremo anche questa. Grazie allora per, per lo spunto. Grazie da casa. Al nostro caro amico Furio da Torino. Io farei l'ultima per stasera, che tanto sono le 20:30, sì, dobbiamo, sì, far vestire. Quale vuoi? Il calembour, che non è un cibo esotico. Il calembour è una di quelle figure retoriche che derivano dall'ambiente pubblicitario fondamentalmente. E si tratta di una sorta di come dire, di tipo, vi faccio un esempio, una pubblicità terribile. Rido perché ho visto l'esempio. Era quello cinematografico, proprio... ok. Orribile. Cioè, tipo, lasciatevi condizionare da iMac, che era la pubblicità di un condizionatore. Abbiamo anche non dare del maiale a tuo marito, dagli Woody, che era una famosa marca di Buster. E queste sono appunto delle figure retoriche dove andiamo oltre, come dire, la similitudine. E, viene utilizzato un termine all'interno della frase, appunto, sì, per paragonare qualcuno a un qualcosa, oppure viene utilizzato un verbo che ha, diciamo, che ha più valenze, diciamo, di significato, e viene utilizzato in una via specifica, come appunto lasciatevi condizionare, in che senso? Dai pensieri, dalle opinioni di qualcuno? No, da IMEC, nel senso è un condizionatore, che per cui appunto quello... il verbo e il soggetto dello spot richiamano un elemento comune. Ma guarda, che brava. Ah, che fatica. Detto ciò, io farei anche una pausa, che ne dici? Sì, una bella ellissi per salutarvi, dopo tipo buona serata. Io a questo punto ti farei sentire questa. La no, dedichiamo... no, anzi no, la teniamo, sì, dai, ormai la teniamo per sì, quando si va nello sì, specifico. Sì. Io vorrei, più che una canzone, vorrei sentire un pezzo... Sì, dai, te lo faccio sentire. Televisivo, che c'è sempre il momento televisivo. Eh sì. Eccoci arrivati alla seconda puntata dedicata al cervello umano. Lo ripetiamo, il cervello umano racchiude i più grandi misteri dell'universo, eppure basta un non nulla per mandare in tilt questo delicato organo. Questa sera abbiamo ancora con noi i fratelli? Abbate, Franco Abbate, fratello non c'è! Non c'è? No! Manca Rosolino? Sì! E dov'è? Al lavoro! Ci di pesca! Sì? Ci di pesca! Rosolino è un pescatore? Sì! Abbate! Dica! È pronto per il primo esercizio? Sì! Allora, secondo lei, peserà di più un chilogrammo di ferro o un chilogrammo di paglia? Di paglia! Di? Paglia! E perché? Perché è più leggera! Abbate! Dica! Le rifaccio la domanda. È più pesante un chilogrammo di ferro o un chilogrammo di paglia? Di paglia! È più pesante la paglia? No, è più leggera! Rispetto al? Addio al ferro! Analizziamo? Sì! Quanto pesa un chilogrammo di ferro? Abbate! Dica! Ha capito la domanda? Sì! Quanto pesa un chilogrammo di ferro? Vedete, amici di Cinico TV, basta davvero un non nulla e anche il cervello più efficiente perde il controllo. È così, abbate? Dica! Vedete, non risponde più ai comandi. Abbate! Dica! E come ho detto io? Sì! Aveva perduto qualche colpo? Sì! Ricominciamo? Sì! Abbate! Dica! Secondo lei quanto pesa un chilo di ferro? E qui si potrebbe andare avanti all'infinito. Meraviglioso. Almeno per altri due minuti. Eh sì, anche sì, un pochino di più effettivamente. Cinico TV, che bello. E tra l'altro compianto il fratello attore, sì. È morto da poco, sì. Purtroppo. Tra l'altro grande scomparsa. Mannaggia. Un'altra volta nel mondo. Si vede che il 2017 è proprio l'anno... È morto il professor Marzocchi di Pavia, che era un grande conoscitore, era un docente universitario di letteratura spagnola, però ovviamente, vista la letteratura spagnola, soprattutto quella barocca, era un grandissimo conoscitore di figure retoriche. È morto, mi sembra, lunedì, e per me è stata insomma una brutta notizia, perché appunto era un professore dell'Università di Ferrara, conosciuto in tutta Italia e in tutta la Spagna, proprio per i suoi studi anche a livello proprio linguistico, delle lingue romanze, soprattutto dello spagnolo, ma anche dell'italiano. Per cui, insomma, 2017, incidenti. Allora riporto anch'io una triste perdita che ho subito, è quella di Gianni Boncompagni. Piango ancora. L'avevamo ricordato forse un paio di settimane fa. Ancora. Dove, tra l'altro, scusate, adesso si fa un attimo di gossip da parrucchiere, no? Ma facciamolo. L'avete sentita la figuraccia di Proietti? Oh! E qui un saluto alla Revancia, al nostro amico Revancia, che aveva lanciato a suo tempo il Toto Morto 2017. E noi si era detto, povero forse arbore. Forse no, Fuoco alle Polveri lo lanciò. Fuoco alle Polveri? Sì, sì, sì. Quindi i nostri amici di Fuoco alle Polveri avevano lanciato il Toto Morto 2017. Bene, amici, sapete cosa è successo? Durante i funerali di Boncompagni, Proietti, che è il meglio di tutti, questo come lo sappiamo, paraculo proprio, però qua invece mi sa che è uscito un po' dalla sua paraculaggine, ha detto, è venuto a mancare il mio grande amico, una scomparsa, insomma, terribile nel mio cuore, ci mancherai Renzo. E immagino, siccome ovviamente dagli astanti c'era Renzo Arbore, che era un grandissimo amico di Boncompagni, perché hanno fatto un sacco di trasmissioni assieme, io non oso immaginare cosa abbia fatto. Mi auguro che insomma il suo, come dire, oh, l'acufene, no, abbia prevalso su quanto ha detto perché se no, ragazzi, lo auguro. Renzo, ciao Renzo, ciao Renzo. Va bene, allora io a questo punto passerei alle cose serie e importanti dopo questa parte. Vabbè. Allora aprite le orecchiette. Signore e signori. Lo direbbe anche Renzo Arbore, che è pugliese, appunto. Allora, cosa succede sabato 6 maggio? Importantissimo. Allora, attenzione, se finora avete cazzeggiato italiano davanti ai fornelli o davanti alle patatine, aguzzate un pochino tutto il timpano e la coclea. Sabato 6 maggio dalle 14 in poi, Radio Wombat farà una diretta in collegamento con la manifestazione Notav in Val di Susa. Quindi la passeggiata barra manifestazione che andrà da Bussoleno a San Didero, si dice Didero, giusto? Sì. Andrà commentata con interviste, racconti, dirette telefoniche e quant'altro su Radio Wombat. Quindi accendete la radio, chiaramente troverete via via poi penso anche i podcast, quello vedremo, però l'importante è sapere che cosa sta succedendo. Questa diretta è dedicata a chi per vari motivi non può recarsi in Val di Susa al fianco dei Notav, ma vorrebbe comunque in qualche modo partecipare o essere veramente informato su quello che succede dai canali amici, non dai canali quelli istituzionali, che tanto poi alla fine non ci danno le vere informazioni di cui abbiamo bisogno. E soprattutto io lo dedicherei anche a tutti quelli che non conoscono per bene la situazione Notav in Piemonte, che pensano che in realtà sia una cosa che non ci tange, e invece è molto importante, e soprattutto dobbiamo sapere tutti quanti che la TAV è molto più vicina di quello che pensiamo. Sì, anche perché Toscana, soprattutto su Firenze ci sono state delle evoluzioni, quindi è anche un motivo per parlare, oltre che chiaramente dare spazio al movimento Notav in generale, a quello che succederà sabato, anche per parlare poi delle conseguenze che questo tipo di approccio sul territorio avrà su Firenze, su tutto l'Appennino, su tutta la valle e quant'altro. Quindi Radio Wombat vi informa e vi sensibilizza. Sarà un pomeriggio interessante, si parlerà di tante cose che avranno a che fare appunto sul Notav e sulla manifestazione. Sarà un'occasione per approfondire cose che magari diamo per scontate ma spesso non lo sono. Quindi informazioni, tra l'altro poi da Firenze si fanno anche degli autobus. Per maggiori informazioni, se voi andate sul sito dell'assemblea contro le nocività, l'assemblea della Piana, voi troverete l'evento Facebook chiaramente con tutte le informazioni e anche un numero di telefono che potete usare per prenotare i posti in pullman. Potete mandare l'SMS oppure scrivere una mail a pianaNociva@anche.no. Sabato 6 maggio, scusate ma nel frattempo chiaramente sto leggendo, per quello sono un po' titubante. Basta, diciamo questo, ecco, mandate una mail pianaNociva@anche.no, oppure se volete usare direttamente il contatto telefonico lo trovate nel sito assemblea no aeroporto no inceneritore. Ora per l'appunto ci vado sempre, ma non mi ricordo comunque un po' di sventezza. Google vi aiuterà comunque, Google è dalla parte un po' di tutti, dai. Esatto. Vi aiuterà. Perfetto. Dopo questo importante altro appuntamento potete questo anche è l'appuntamento più importante di sabato, tutti, quello di collegamento agli eventi. Poi ci sono tutti i vari divertimenti. Esatto, partiamo da venerdì, quindi domani dalle 16 alle 23 Acoustic Jam Session, dalle 15:30 c'è un ritrovo di musicisti, dalle 18:30 il Mega Jam e dalle 19 aperitivo a bordo palco, tutto in polveriera, quindi che bravi. Quindi in centro a Firenze. Che bravi e belli. Bravi, sì, belli, sì, giovani, simpatici. E simpatici. Sempre sul pezzo. Poi, io, scusate, nel frattempo. Sì. Hai trovato il sito. Sì, il vero link. pianacontronocivita.noblogs.org. Scusate, ragazzi, ma nel mio computer ce l'ho salvato fra i preferiti e quindi per comodità. Che poi uno si lamenta di Firenze e tutto quanto, ma bisogna volergli tra bene. L'altro posso a questo punto approfittarne, concludiamo la parte quella meno ludica, sempre allora c'è una chiamata per gli artisti contro le nocività per il Parco della Piana. realizza un'opera da installare nella ciclabile contro le nocività. Verrà inaugurata questa mostra lungo la ciclabile il 14 maggio 2017. Se voi andate nel suddetto sito trovate come partecipare, i requisiti dell'opera, le tematiche per partecipare a poi quella che sarà la giornata di appunto del 14 maggio. Trovate tutte le informazioni lì, ora non ci stiamo a dilungare su questo. Firenze ha una fantastica accademia, ragazzi dell'accademia, che poi vi espongono le opere. Accademia, dentro. Licei artistici, ma anche chi senza pretese ha qualcosa da comunicare. Perché è importante, esatto. Assemblea alla Piana contro le nocività ha bisogno di un supporto artistico, fatevi avanti. Bene, scusa, continua. Io vado a fare un modellino di Creta. Che bello! Un vaso di Creta. Sì, poi chiaramente ci sono dei requisiti proprio perché col DAS. Proprio per i requisiti delle opere, proprio perché poi dovranno essere esposti e quindi dovranno essere dei supporti abbastanza esponibili su un lungo percorso. Senza, insomma, che siano pericolosi, ecco. Voi anche solo cercate chiamata per gli artisti contro le nocività, vi viene come prima scelta. Esatto. Bene. Io vado con i divertimenti ancora. Dai, divertiamoci. Venerdì sera al Next Emerson in via di Bellagio, Punticina Records. Quindi un bel concertino punk con diversi gruppi. Stringo un po' perché è tardi, tanto poi ve li diranno autodate anche. E sabato appunto qui in diretta su Radio Wombat il corteo in valle, e invece dalle 15.30 alle 22 abbiamo Rapier Sunset, torneo basket 3 contro 3 in Viale Corsica, e al K100 invece Rudy Pressure con La Svolta, quindi una bella serata. Un sacco di roba e bella, quant'altro. Sì, ci sono di questi fine settimana noiosissimi durante i quali non succede nulla, e poi ci decidiamo tutti insieme, uno deve scegliere se andare di qua o di là. Esatto. E ondarossa.info, stavo leggendo delle cose terribili, ok. Sì, infatti anche su Onda Rossa ci sono tante informazioni che andrebbero via divulgate. Vi ricordiamo che è una radio amica, andate a controllare un po' il sito, ci sono loro come sempre, sono super super super efficienti, sono i nostri babbi. Esatto. I nostri babbi barra mamme. Esatto. Bene. Benissimo, che è morto dire? Anche Valentino Parlato, fondatore del Manifesto. Basta, la chiudiamo, sì, qua. La chiudiamo qua. Basta così. Per oggi ci basta, anche perché dobbiamo dare spazio a Naoto, altrimenti ci brontola. Con 8 Hertz. Vi Bene. Salutiamo con l'ultimo pezzettino. Sì, scusate, lo mettiamo. Ho fatto un danno. Cosa mettiamo? Dimmi cosa vuoi e ti dirò chi sei. Io, ma sì, chiudiamo in bellezza parlando di radio. Sì, dai. Sì, vai. Bene, ci sentiamo qui sulle stesse frequenze giovedì prossimo alle 19.30. Un saluto da Nina e da Nenia. Ciao. Ciao. Ciao, ciao, ciao. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through.